4. Dal Daily Courant, 30 dicembre 1775. Un resoconto dell'intervista con il colonnello Johnson, commissario del Dipartimento per gli Affari Indiani delle colonie americane. Il 28 dicembre scorso, all'ora del tè, mi sono recato a Westminster, all'albergo dell'Elmo d'Oro, dove risiede il commissario del Dipartimento per gli Affari Indiani delle colonie americane, colonnello Guy Johnson. Egli è un uomo robusto, di media statura. Porta i capelli corti sulla nuca, pettinati all'indietro, come per lasciar spazio al volto, onesto e minuto. Benché rivesta cariche importanti, il suo eloquio è conciso, laconico, con un accento irlandese assai marcato. Dopo un breve scambio epistolare, mi ha ricevuto con molta gentilezza e ha accettato volentieri di rispondere alle mie domande. Circa le ragioni che hanno spinto la delegazione indiana ad attraversare l'oceano, ha affermato che le tribù nostre alleate sono estremamente confuse dagli eventi delle colonie. Ufficiali che combatterono al loro fianco nella guerra contro i francesi sono diventati avversari gli uni degli altri. In un simile guazzabuglio, il popolo Mohawk desidera ascoltare la viva voce di Sua Maestà e agire soltanto in ossequio alle sue direttive. Una visita del tutto simile avvenne nel 1710. Anche in quell'occasione si trattava di consolidare un'alleanza e lo splendore di Londra doveva servire da contrappeso alle fandonie dei gesuiti francesi, secondo le quali Cristo nacque a Parigi e venne crocifisso in Inghilterra. La regina Anna ricevette a corte l'imperatore Tiyanoga, che i coloni chiamavano Hendrik, accompagnato dal re di Macas, detto Brant. Si dice che costui fosse il nonno del principe Thayendanegea, anch'egli noto col nome di Brant. Ho chiesto al colonnello Johnson di darmi notizie sui nostri alleati indiani. Egli mi ha mostrato una mappa, disegnata di suo pugno, per il ministro delle colonie Lord Germain. Qui le sei nazioni irochesi occupano il territorio a ovest della colonia di New York fino ai Grandi Laghi. Il popolo più importante e autorevole è quello dei Mohawk, i cui territori si trovano entro i confini della colonia. Dai tempi della regina Anna, la nazione Mohawk è di molto progredita. Abitano villaggi di case robuste e dignitose, coltivano la terra con l'abilità di un contadino dell'Essex, sono tutti devoti cristiani e si assicurano molti agi e comodità grazie al commercio con i mercanti inglesi. Quanto alla consistenza militare, l'intera federazione può mettere in pochi giorni 15.000 uomini sul sentiero di guerra. Secondo il colonnello Johnson, una chiara e inequivocabile scelta di campo da parte di questi alleati basterebbe da sola per far desistere dalle imprese bostoniani che assediano Quebec. Non a caso, ha detto, sono stati sufficienti un centinaio di guerrieri per difendere Montreal e catturare il più pericoloso dei nemici, riferendosi a quel Ethan Allen che pochi mesi fa si era impadronito di Fort Ticonderoga. Ho domandato allora come mai il principe Thayendanegea, giunto in Canada per difendere Montreal, sia partito alla volta di Londra proprio quando l'esercito continentale schierava le truppe sulla riva del San Lorenzo. A questa domanda, il colonnello Johnson si è alzato, ha riposto la mappa e dopo un lungo silenzio mi ha spiegato che i 15.000 guerrieri delle sei nazioni attendevano solo un cenno per intervenire contro i ribelli e rincorrerli fino a New York. Egli guidava una piccola avanguardia, giunta in Canada come rinforzo per ordine del generale Gage. Purtroppo, tra il generale e il governatore di Quebec sorse un dissidio circa l'utilizzo delle milizie Mohawk ed esse furono costrette a smobilitare. Molti ufficiali temono che le truppe indiane sfuggano al loro controllo, ha chiarito il colonnello Johnson. Questo non succede quando il comando è affidato a una persona di loro fiducia. Sir William Johnson, mio zio, si è occupato per due decenni degli affari indiani. Egli è morto da oltre un anno, ma le sei nazioni continuano ad avere grande confidenza nella nostra famiglia. Se tale fiducia verrà confermata anche da Sua Maestà, l'alleanza con gli indiani non potrà che portare benefici agli interessi della corona. Con questa importante precisazione si è conclusa l'intervista e il colonnello Johnson mi ha dato appuntamento per un resoconto completo della sua udienza con Lord Germain. Panifex.